servo di Dio, padre Pino Puglisi, 1937-1993. Cristo è nei suoi martiri, dicevano i primi cristiani, convinti che quei primi santi fossero il prolungamento dell'umanità di Cristo. Nel nostro secolo un'altra evidenza si sta imponendo. I credenti possono essere perseguitati non solo con forme estreme che esigono la testimonianza esplicita e coraggiosa data in un atto supremo e conclusivo, ma in giorni e giorni di ostilità crescente, di ricatti sistematici, di minacce certe anche se non chiaramente definite. Possono essere metodicamente aggredite la fede del cristiano, la sua carità, la sua fame e sete di giustizia, la sua passione per la verità, la sua affezione alla Chiesa. E il martirio può accadere in mille forme, anche anonime. A volte il martire è un volto indistinto tra centinaia di altri volti ugualmente sfigurati. A volte il martirio è nascosto in una morte apparentemente casuale, che però è stata accuratamente programmata o anche solo sollecitata dai persecutori. A volte il sì del martire a Cristo è nascosto nel no che egli dice ai violenti di questo mondo. Già all'inizio degli anni 50, un celebre teologo avvertiva: può accadere che l'epoca in cui siamo entrati conoscerà una forma di martirio molto povera, molto spoglia, senza nulla di spettacolare per la fede della comunità cristiana, dato che lo spettacolare sta passando tutto nel campo della bestia, cioè dell'anticristo. Un'epoca in cui sarà chiesto ai martiri, prima di morire corporalmente per Cristo, d'essere avviliti e di rinunciare alla gioia di poter confessare Gesù in faccia al mondo. Tutto questo dobbiamo premettere parlando del martirio di padre Puglisi. Non tocca infatti a noi anticipare il giudizio della Chiesa, che è ancora in formazione. Tuttavia abbiamo già delle indicazioni molto significative. Fu lo stesso padre Pino a rivelare la sua anima e la sua disponibilità cosciente al martirio. Lo fece un anno prima di morire, intervenendo a Trento ad un convegno. La testimonianza cristiana è una testimonianza che diventa martirio. Dalla testimonianza al martirio il passo è breve, anzi, è proprio questo che dà valore alla testimonianza. Il testimone è testimone di una presenza del Cristo presente dentro, anzi, dovrebbe diventare trasparenza di questa presenza, e testimonia la presenza di Cristo attraverso la sua vita vissuta proprio con questo desiderio costante di vivere in perfetta comunione con Lui, sempre più profonda con Lui, in una fame e sete di Lui. Essere testimoni soprattutto per chi conserva rabbia nei confronti della società che vede ostile. A lui il testimone deve infondere speranza, facendo comprendere che la vita vale se è donata. Dopo la morte, i più autorevoli giudizi sulla sua vicenda non faranno che riprendere questa anticipata confessione. Padre Puglisi è morto per avere avuto fame e sete di giustizia, dirà il suo arcivescovo. Padre Pino Puglisi fu un coraggioso ministro del Vangelo, dirà il Papa. Nella vita di questo umile prete palermitano non ci fu un giorno preciso in cui gli fu chiesto di rinnegare Cristo e nel quale egli poté offrire gloriosamente la sua vita. Ci fu invece un'intera esistenza sacerdotale, durante la quale egli imparò ad amare Cristo più di se stesso e ad amare tutto ciò che è di Cristo. Così quando, negli ultimi anni della sua vita, gli affidarono dei parrocchiani, vittime abituali del sopruso dei violenti, egli li difese, parlando con chiarezza ed agendo con efficacia, rimettendo a Dio la cura della sua vita ripetutamente minacciata, fino a quando gliela tolsero in un istante, nascondendo l'arma dietro un finto gesto di rapina. Fu un martirio povero, simile a quello dell'Eucaristia, pane spezzato e sangue versato, che si lascia consumare ogni giorno. Il suo sacrificio resta indubbiamente legato alla lotta contro la mafia, ma egli non fu sconfitto in una lotta programmata contro un qualsivoglia nemico. Egli combatté semplicemente la buona battaglia del suo sacerdozio e quando incontrò il male lo avversò con tutte le sue forze per difendere i suoi figli. Morì per loro in una strada della sua parrocchia, ma il suo sacrificio gettò una luce nuova su un fenomeno sociale che non era solo quello di semplice criminalità organizzata come molti pensavano, ma era piuttosto l'adesione sistematica a un vero e proprio regno del peccato. In Sicilia era già risuonato il grido del cuore di Giovanni Paolo II, improvvisato nella Valle dei Templi ad Agrigento. Dio ha detto non uccidere. L'uomo, qualsiasi agglomerazione umana o la mafia, non può calpestare questo diritto santissimo di Dio. Nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, lo dico ai responsabili, lo dico ai responsabili. Convertitevi, per l'amore di Dio, mafiosi, convertitevi. Un giorno verrà il giudizio di Dio e dovrete rendere conto delle vostre malefatte. Era il maggio del 1993. 2 mesi dopo la mafia avrebbe risposto mettendo una bomba davanti alla cattedrale del Papa, San Giovanni Laterano, altri 2 mesi, e avrebbe decretato l'uccisione del prete palermitano. Si scoprirà poi che in ambedue i casi gli esecutori appartenevano al gruppo di fuoco della mafia di Brancaccio. Riflettendo sul suo assassinio, i vescovi di Sicilia scrissero: l'incompatibilità col Vangelo è intrinseca alla mafia. Per se stessa, per le sue motivazioni e per le sue finalità, oltre che per i mezzi e per i metodi adoperati, la mafia appartiene senza possibilità di eccezione al regno del peccato e fa dei suoi operai altrettanti operai del maligno. Padre Pino non aveva a difesa e a stimolo del suo operato un simile autorevole pronunciamento, al contrario, fu il suo martirio a provocarlo. Così un semplice sacerdote accelerò l'elaborazione di un giudizio che per la Chiesa era ormai necessario e improrogabile. Obbedendo alla sua missione sacerdotale fino all'effusione del sangue, egli non svelò soltanto l'iniquità dei violenti, ma accrebbe la coscienza e il senso di responsabilità della sua Chiesa. Padre Pino Puglisi aveva passato a Brancaccio, suo paese natale, solo la prima infanzia trascorsa in una famiglia di buoni cristiani, che non gli mise ostacoli quando a 16 anni decise di entrare in seminario. I suoi studi durante la guerra erano stati precari. Aveva trascorso molte ore sui campi o aiutando il papà nella bottega di calzolaio, ma aveva incontrato un prete buono e dotto che l'aveva aiutato negli studi di greco e di latino necessari per intraprendere gli studi liceali. Ricevette il suddiaconato a 21 anni ed era il tempo in cui i giovani seminaristi dovevano scegliere definitivamente per il celibato. Sulla tradizionale immaginetta ricordo, Pino fece scrivere: accetta, Signore, l'olocausto della mia vita. E poiché assieme agli studi di greco gli era venuta la passione per le etimologie, aveva annotato: olocausto vuol dire bruciare tutta la propria esistenza sull'altare della croce.